Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, consentitemi di iniziare questa sera facendovi alcune domande. In queste settimane di estate, di vacanze di agosto, siete stati vicini ai vostri figli, soprattutto ai bambini più piccoli? E come avete fatto? Che atteggiamento avete avuto con loro? Che padri soprattutto siete stati? Per rispondere a queste domande vi propongo il libro di un esperto, Federico Ghiglione, che è un pedagogista, autore di un libro breve e colloquiale ma denso e ricco di riflessioni. Si intitola I papà spiegati alle mamme, pubblicato da Einaudi, 130 pagine, 14 euro. Essere padre è un lavoro, ci spiega Ghiglione, oltre che una responsabilità, ma anche una grande gioia che instaura dei rapporti nuovi, ovviamente col nuovo arrivato, con la nuova arrivata, il bebè, ma anche con il partner e con l'ambiente circostante. E in questo lavoro noi maschi forse siamo quelli più in difesa, perché è crollato il mito del padre autoritario e dobbiamo ritagliarci un profilo particolare con cui esercitare la nostra paternità. Il ruolo del padre resta molto importante, come nota all'inizio del libro l'autore, il quale parla di un bilanciamento che importante da ricordare tra la procreazione fisica riconducibile alla madre e quella che potremmo chiamare la procreazione sociale della discendenza familiare di pertinenza del padre. E proprio per questo l'autore si dichiara contrario alla libertà di scegliere il cognome, perché il padre, scrive, è ciò che ci identifica socialmente. Il padre è la nostra origine, la nostra storia, la nostra discendenza. E adesso di questi temi parliamo con l'autore. Buonasera Federico Ghiglione. Buonasera. Federico Ghiglione, nel suo libro a un certo punto c'è un'affermazione piuttosto impegnativa, e cioè che quello del padre è un mestiere che, come tutti i mestieri, si impara con la pratica e con il tempo. Ecco, i padri sono abituati a considerare la loro funzione come un mestiere, quindi a darsi da fare per imparare a essere padri? Ma intanto i padri sono stati sorpresi dal fatto che è un mestiere da imparare, perché un tempo i loro nonni il mestiere lo consideravano un mestiere già conosciuto, bastava fare come avevano visto fare i loro padri e non c'era niente da imparare, tutto sommato. Invece adesso dobbiamo proprio inventarcelo, dobbiamo trovare un nostro modo di diventare genitori, diciamo quasi su misura rispetto alla moglie che abbiamo, ai figli che abbiamo, alla situazione, alla vita che conduciamo. Quindi è un po' un fai da te difficile da costruire. E a proposito di questa misura, lei infatti nota a un certo punto che la paternità, la maternità fa cambiare o può far cambiare abbastanza radicalmente anche i rapporti di coppia, i rapporti tra i partners, perché alcuni modi in cui siamo abituati a guardare il partner, quando questo diventa padre o madre, cambiano, e quindi anche gli atteggiamenti nostri possono cambiare. Sì, certo, il rapporto di coppia non è diciamo una senz'altro una buona base di partenza, ma non è predittore di una buona genitorialità. La genitorialità va costruita e le coppie, nel momento in cui si confrontano con la genitorialità, potrebbero scoprire delle cose di se stessi e del partner che vanno un po' registrate. Quindi è un piccolo salto nel buio che le coppie devono affrontare con coraggio e con dedizione, dedicando molta attenzione per poter funzionare. Ecco, nel momento in cui comincia questo viaggio, il viaggio nella genitorialità, il padre si trova a essere una figura un po' scissa. Lei dice nelle prime pagine del suo libro che può essere inteso come una rottura rispetto al rapporto che c'è tra il bambino o la bambina appena nata e la madre, o un dono. Ecco, siamo in grado di capire il significato di questa possibile scissione? Ma in effetti l'entrata in gioco del padre è sempre stata vista come una diciamo, l'entrata in gioco dell'altro, no? È sempre stata considerata come un'intromissione in un mondo idilliaco fatto di mamma e bambino, e in effetti un po' è così dal punto di vista proprio della naturalità. Però il fatto che adesso i papà entrino nelle vicende di cura, nelle vicende affettive del bambino da subito, è senz'altro un dono, è il dono migliore che si può fare ai propri figli, perché si insegna loro che il mondo non è fatto solo dalla mamma, è un mondo molto più vario. Si insegna al bambino che il mondo è diversità, che il mondo è varietà di rapporti, e lo si prepara a una vita che gli faremo fare, che è senz'altro costellata di mille presenze. Non siamo più, ormai noi, i figli vanno al nido o stanno coi nonni una volta finito il permesso di maternità delle mamme, quindi diciamo dal sesto mese in poi questo bambino dovrà essere capace di rapportarsi con babysitter, asili, nonni, eccetera. E quindi il fatto che da subito impari che non esiste solo la mamma, ma esistono più persone che si possono prendere cura di lui, è senz'altro un dono che noi gli facciamo. Il modo di essere padri però può essere molto diverso, infatti lei esemplifica in varie categorie, adesso le vediamo brevemente. Innanzitutto c'è il padre pioniere. Che cos'è il padre pioniere? Ma il padre pioniere è, più che una categoria, è la categoria a cui apparteniamo tutti. Cioè i padri di oggi sono tutti pionieri, stanno tutti cercando una loro dimensione. Non siamo più noi siamo una generazione che non può più fare affidamento soltanto sul bagaglio culturale che ci è stato consegnato dai nostri nonni, dai nostri padri. Siamo padri che devono un po' inventarsela la paternità, e secondo me il materiale per costruire una buona paternità è senz'altro quello che viene sviluppato con la propria compagna, con la mamma dei propri figli, con la propria moglie, perché è lì che si costruisce una genitorialità e quindi una paternità su misura. Quindi pionieri in questo senso, cioè molto distaccati dal bagaglio culturale che hanno ricevuto. E questa paternità su misura appunto può assumere diversi aspetti. Lei parla del padre autoritario, del padre mammo, del padre amico, del padre da ricreazione. Ecco, chi sono questi padri? Ecco, queste sono le categorie a cui io tengo. Cioè, il padre autoritario è quello che ha fallito, è quello dal quale ci stiamo distaccando tutti con molta attenzione. Invece gli altri padri sono, secondo me, dei padri che tutto sommato falliscono la loro missione. Cioè il padre che fa il mammo è un padre che limita la sua azione alla ripetizione di quello che vede fare alla madre, cioè non caratterizza la propria genitorialità col proprio stile, la propria emotività e il proprio linguaggio. Invece il padre della ricreazione è il padre amico. Il padre amico è un padre che gioca col bambino, cura tutta la parte ludica, ma si dimentica tutta la parte normativa, no? E molto spesso i papà, nella fretta di accattivarsi l'affetto del figlio, vanno oltre, cioè sconfinano in un'amicizia che poi non lascia loro lo spazio per poter svolgere poi il ruolo di padre e di educatore, no? Quando sei amico di qualcuno non puoi avere un rapporto gerarchico, il rapporto di educazione è un rapporto gerarchico, quindi questi padri qua, secondo me, in buona fede falliscono un po' la loro missione, nel senso che se ne perdono un pezzo. E infatti lei nelle ultime pagine insiste su questo aspetto, che bisogna costruire un perimetro di regole, a costo se no di costruire un senso di vuoto, che è quello caratteristico dei nostri tempi. Le regole ci vogliono, insomma. E certo, io guardi, sono affascinato da un'affermazione che avevo sentito una volta a un convegno, cioè la libertà, l'estrema libertà che un bambino ha all'interno delle regole. Sembra quasi una contraddizione in termini, invece è straordinaria come affermazione. Cioè il bambino che sa dove sono i confini si muove liberamente, invece il bambino che non ha contenimento, non ha confini, è incerto, è insicuro, quindi o non si muove e quindi ha una vita povera, diciamo, dal punto di vista della crescita, oppure si muove in maniera smodata, quindi travalica i limiti senza che nessuno si prenda cura di lui e quindi va nell'errore. Una cosa che lei sostiene nel suo libro è che uno dei capisaldi della nuova paternità è la visibilità dei sentimenti. Ecco, prima era più difficile essere teneri con i figli? Prima bisognava non farlo, perché per essere un padre autoritario bisognava avere la distanza emotiva, cioè molto spesso la distanza emotiva era uno degli elementi fondanti dell'autorità, nel senso che non mi faccio vedere tenero, come dice lei, e così ho lo spazio di essere duro. Invece adesso la strategia dei papà sembra essere completamente opposto: vanno in sala parto, toccano il bambino appena nato, se ne prendono cura, cambiano i pannolini, lo baciano, lo tengono in braccio, e con quella confidenza emotiva si comprano, acquistano direi quel lascia passare, quella priorità che poi permetterà loro di avere un contatto con loro e poter fare un progetto educativo significativo ed efficace. Se no non si spiegherebbe come mai un bambino debba ascoltare un papà che rompe le scatole con le regole piuttosto che ascoltare molti altri modelli affascinanti e facili, no? che la società propone. Io credo che la chiave che dà la priorità al papà sia proprio quella affettiva, cioè se un papà si fa vedere nel sentimento e impara a conoscere il sentimento del bambino, quindi apre questo canale di comunicazione, avrà poi la priorità nel momento in cui dovrà educarlo. Lei insiste nel libro, e ne ha fatto cenno già anche qui, sull'esigenza di condividere non soltanto con il compagno, con il partner o con la partner, ma anche appunto con la famiglia allargata, eccetera eccetera. Però a un certo punto si pone una domanda che le chiedo se è retorica: esistono quindi predisposizioni naturali, cioè c'è una differenza tra l'essere padre e l'essere madre che va mantenuta? Ma guardi, io questa risposta non sono riuscito a darmela, nel senso che credo in tantissimo nel fatto che la genitorialità si stia un po' allontanando proprio dalle caratterizzazioni di genere, no? Cioè, e anche si stia allontanando, arrivo a dire, anche dalla genitorialità biologica, cioè mi sembra in certi casi che il genitore sia quello che effettivamente si prende cura del bambino. Io penso non so, alle adozioni, che hanno molto spesso un ottimo risultato. Altre volte invece penso, questo forse riguarda più i primi mesi del bambino, penso che ci sia una sorta di naturalità che porta il bambino verso la mamma per questioni, lei pensa all'allattamento, no? Per questioni quindi di cura, e porti il bambino verso il papà nel momento in cui l'animale bambino riconosce nel papà il capobranco, no? La persona forte, la sicurezza, no? La tranquillità. Quindi credo che ci sia una sorta di naturalità iniziale e che poi venga sostituita da qualcosa di un po' più sociale, no? Che caratterizza a questo punto i genitori più per come sono fatti loro, per le loro caratteristiche personali, più che per il genere al quale appartengo. Ecco, le faccio un'ultima domanda che non ha attinenza diretta con il libro, ma questo sovraccarico di responsabilità che sembra pesare sui nuovi padri, secondo lei può contribuire a spiegare perché si fanno pochi figli? No, io guardi, non credo che sia questo. Io credo che sia più una preoccupazione economica, una preoccupazione più che per l'incapacità di assumersi la responsabilità, magari la coscienza del fatto di aver poco tempo per farlo in maniera efficace, quello forse sì, che sono due cose leggermente diverse, nel senso che io sento la responsabilità, me la collerei anche, ma non ho il tempo per dedicarmi in maniera efficace ai miei figli perché lavoro, perché sono sempre in giro, allora faccio meno figli. Non è una questione, secondo me, di paura di non farcela come carico di responsabilità, ma come invece magari tempo a disposizione. Lei ha dato il buon esempio con 3 figli. Sì, sì. Diciamo che mi sono abbastanza dato da fare. Okay. Grazie a Federico Ghiglione, autore di I papà spiegati alle mamme. Buona Grazie serata. Grazie mille a voi, buona serata. Una riflessione sulla famiglia moderna, altrettanto spigliata e profonda, è quella di un grande scrittore americano morto nel 2007, Kurt Vonnegut. Me la faccio sentire subito. Alcune di voi forse diventeranno psicologhe o pastori di una chiesa. In entrambi i casi dovrete vedervela con uomini, donne e bambini a cui il tasso astronomico di divorzi nel nostro paese sta rovinando la vita. È bene che sappiate che quando un marito e una moglie litigano, può sembrare che siano per motivi di soldi, di sesso o di potere. Ma in realtà il motivo per cui si strillano contro a vicenda è la solitudine. Quello che stanno davvero dicendo è: da solo non mi basti. Ai tempi in cui quasi tutti gli esseri umani vivevano all'interno di famiglie allargate e abitavano nella stessa parte di mondo per tutta la vita, il matrimonio era davvero qualcosa da festeggiare. Gli invitati ridevano invece di piangere, lo sposo otteneva un sacco di nuovi amici e la sposa otteneva un sacco di persone nuove con cui parlare di tutto. Oggigiorno invece, quando ci sposiamo, otteniamo quasi sempre una persona sola. E sì, certo, magari un po' di parenti acquisiti male in arnese, pronti ad ammazzarsi a vicenda e residenti a centinaia di chilometri di distanza, se ci dice bene, in posti come Vancouver, in Canada, o Hollywood, in Florida. E quindi ripeto, se qualcuna di voi, ragazze ben istruite, si troverà nella posizione di consulente riguardo a un matrimonio in crisi, per favore rendetevi conto che il vero problema potrebbero non essere i soldi, il sesso, il potere o l'educazione dei figli. Il vero difetto della moglie, dal punto di vista del marito, potrebbe essere che lei da sola non gli basta. Il vero difetto del marito, dal punto di vista della moglie, potrebbe essere che lui da solo non le basta. Queste righe erano tratte dal libro Quando siete felici, fateci caso. È pubblicato da Minimum Fax, 112, pagine 13, e ora è tradotto da Martina Testa. Questo libro contiene 9 discorsi tenuti dallo scrittore tra il 1978 e il 2004 all'apertura dell'anno accademico di alcuni college e università sparsi negli Stati Uniti. Si tratta dei cosiddetti commencement speeches. In questi discorsi, nonostante la solennità del momento, l'autore, lo scrittore, usò sempre un tono molto disinvolto, magari sorprendente vista la solennità appunto di quei momenti, e un tono sempre ricco di spunti di vita per i giovani che si affacciavano in quel momento alla vita adulta, e affronta in questi 9 discorsi l'autore dei temi come l'amore, il successo, la politica. C'è anche un appassionato appello a un certo punto che riguarda proprio un tema di cui abbiamo appena parlato e di un tema che ci interessa, cioè i bambini e i libri. Dice infatti Vannegut ai suoi interlocutori: tenete il bambino lontano da quei maledetti computer e televisori se non volete che diventi un mentecatto solitario che vi ruba i soldi dalla borsa per comprarsi le cose. Non abbandonate mai i libri. È così piacevole tenerli in mano col loro peso cordiale, la dolce riluttanza delle pagine quando le sfogliate coi vostri polpastrelli sensibili. Chiudiamo adesso la parata dei libri che abbiamo dedicato in queste settimane ai viaggi con 2 titoli particolari delle edizioni Exorma. Il primo è di Valeria Gentile, che è una giornalista e viaggiatrice sarda, che si intitola Viaggi in versi sulle tracce dei poeti contemporanei, Giappone, Cina, Libano, Palestina, Senegal, 188 pagine, 14,90 euro. Questo non è un libro di poesie, ma un libro di viaggio, appunto al rovescio, al contrario, all'opposto, come spiega l'autrice. Viaggi non abituali e altre scoperte sulle tracce dei nuovi poeti del mondo, così ce lo presenta. Allora, in queste tappe che vi ho ricordato troviamo le parole e le immagini dell'autrice, che sono accompagnate dai versi di diversi poeti dei vari paesi attraversati, e quindi troviamo i versi di Akira Takenami, di Wu Jingqing, una poetessa cinese, di Yumana Haddad, una poetessa libanese, e poi di Hazon Al-Sabe e di Aliune Badara Bey. Sentiamo per esempio, a proposito del Senegal, i versi di quello che è considerato uno dei maggiori poeti francofoni contemporanei, il senegalese Armadou Lamine Sall, e il commento che questi versi hanno ispirato all'autrice. Non so di quale paese tu sia, né qual è il tuo nome che porti con orgoglio. Non so di quale terra lontana tu sei figlio, di quale ospitalità tu abbia goduto. Non so di quale madre né di quale padre vorresti tanto abbracciare il volto. Non so di quale sogno sei l'eterno guardiano, di quale solitudine tu sia l'ostaggio. Poche cose vengono in mente all'italiano medio che pensa al Senegal. Bambini sporchi e affamati, clandestini scampati alla morte sui gommoni, Vukumpra o terroristi islamici. Il senegalese medio invece parla delle squadre di calcio italiane, della politica italiana, della società e dell'economia italiane. Conosce diversi nomi di città e in molti casi parla la nostra lingua perché è stato in Italia almeno una volta nella vita. Sono i muratori delle nostre case e gli operai delle nostre fabbriche, i cavatori e i benzinai. Sono le colf dei nostri anziani, i venditori ambulanti delle nostre spiagge e i cuochi dei nostri ristoranti, i raccoglitori della nostra frutta e gli addetti al riciclaggio dei nostri rifiuti. Gli immigrati stanno salvando dal baratro il nostro paese e noi non sappiamo niente di loro né dei loro paesi di provenienza. L'altro libro è un omaggio a una terra martoriata, ben nota a tanti italiani, la Tunisia. Ne è autrice Luce Lacquaniti, che è un'orientologa, esperta di Tunisia, scrittrice e fotografo, affascinata, come dimostra questo libro, dalle immagini che ha colto a Tunisi. E il libro si intitola appunto I muri di Tunisi, segni di rivolta, 176 pagine, 18 euro. l'editore è appunto Exorma, e qui troviamo la testimonianza della rivoluzione del 2011 avvenuta in Tunisia attraverso le scritte che vennero fatte in quel periodo sui muri di Tunisi, alcune anche in lingua italiana. Troviamo molti temi, naturalmente la contrarietà ai fratelli musulmani, ma anche un minaccioso "e la Tunisia, non la Danimarca, le nostre cose sacre non si toccano", con riferimento alle polemiche sulla pubblicazione in Danimarca appunto di alcune vignette offensive per l'Islam. Insomma, il clima era già incandescente fin da allora. Un altro libro che non è proprio di viaggi, anche se ci porta in diverse affascinanti zone del pianeta, ma piuttosto si tratta di una biografia romanzata ma autentica di un grande scrittore inglese, e cioè Edward Morgan Forster, è Arctic Summer, pubblicato da Edizioni EO, 364 pagine, 19,50 euro, tradotto da Fabio Pedone. Forster è l'autore di titoli molto noti anche per le trasposizioni cinematografiche, Camera con vista, Passaggio in India, Maurice. L'autore era vissuto tra il 1879 e il 1970 e aveva lasciato incompiuto l'ultimo romanzo, il cui titolo era appunto Arctic Summer. Adesso questo titolo viene ripreso dall'autore, che è Damon Galgut, uno scrittore sudafricano. Questo libro, che è tradotto da Fabio Pedone, ha avuto un grande successo all'estero per la capacità di descrivere la maturazione e i turbamenti dello scrittore, che era omosessuale, in un'epoca in cui l'omosessualità naturalmente non era socialmente accettato. Lo stesso romanzo Maurice, che affronta questi temi, sarebbe stato pubblicato solo dopo la morte dello scrittore nel 1971. Forster ebbe comunque una vita abbastanza avventurosa, anche perché cercava in tutti i modi di sfuggire al clima puritano della sua Inghilterra. Fu in Egitto, due volte in India, la seconda volta fu segretario di un marajà, ed ebbe diverse relazioni sentimentali che gli fecero accettare la propria sessualità. E questo libro affronta nelle ultime pagine anche l'amarezza che colpì Forster per le critiche ricevute al modo in cui, soprattutto nel Passaggio in India, che era stato un romanzo che aveva avuto un enorme successo, aveva descritto il regime inglese. Le critiche non erano state molto accettate dalla società dell'epoca, ma in realtà pensò Forster che quelle critiche avessero colte nel segno, perché, come scrive l'autore, in India c'era stato con gli inglesi, ma disprezzava quasi tutti così tanto che era possibile li avesse osservati con scarsa precisione. Tuttavia, tornando con il pensiero ad alcuni dei discorsi che aveva fatto con loro, ad alcune delle cose di cui era stato testimone, il suo sentimento di offesa si raffreddò. Aveva scritto ciò che aveva sentito con la massima onestà possibile, e se questo rendeva apparentemente ingiusti i suoi giudizi, le sensazioni restavano comunque. L'essere onesti e l'essere giusti non sempre coincidevano. E a questo punto il confettino. Offriamo una meta esotica anche ai nostri giovani lettori con I sogni del serpente piumato, fiabe e leggende dal Messico di Luigi Dalcin, illustrate da vari autori che intervengono sulle 13 leggende che vengono qui presentate in questo libro pubblicato da Franco Cosimo Panini, 14 euro. Vi ricordo che giovedì scorso, il 27 agosto, abbiamo ricordato il 50° anniversario della morte di uno dei grandi dell'architettura del Novecento, ossia Le Corbusier, che era poi uno pseudonimo, perché l'architetto si chiamava in realtà Charles-Édouard Jeanneret Gris, era nato in Svizzera nel 1887. Le Corbusier è uno dei maggiori esponenti del movimento moderno ed è certamente il padre di un filone molto fortunato dell'architettura contemporanea. In questa occasione vi segnalo un libretto che raccoglie tre preziosi interventi dell'architetto, anche perché hanno a che fare tutti con l'Italia, paesi che Le Corbusier amò e frequentò molto. Il libro si intitola L'unica verità dell'architettura, pubblicato da Castelvecchi, 46 pagine, 7,50 euro, e tradotto da Guido Fiorini. Nella prima parte del libro troviamo due conferenze che Le Corbusier tenne a Roma del 1934, e nel secondo un intervento del 1937 sulla rivista Domus. Attenzione alle date, siamo in pieno fascismo, e infatti la prima venuta a Roma, quella del 34, sembra sia stata giustificata, oltre che da una mostra, dal tentativo di ingraziarsi Mussolini per costruire una delle nuove città del regime, cioè Pontinia. E infatti, ricorda il libro, la seconda conferenza si aprì proprio con un messaggio del duce che lodava il movimento moderno. Da tempo del resto si discute delle simpatie di Le Corbusier per il fascismo, lo hanno fatto anche tre biografie recenti che sono uscite in Francia, una di François Charlin che si chiama Un Corbusier, pubblicato da Seuil, 510 pagine, 24 euro, la seconda di Xavier de Jarcy, Le Corbusier, Un fascisme français, di Albin Michel, 288 pagine, 19 euro, e il terzo di Marc Perelman, Le Corbusier, Une vision froide du monde, pubblicato da Michelon, 19 euro, 256 pagine. In questo librettino italiano Le Corbusier spiega che cosa sia l'architettura moderna. Dice: un gusto di rinnovamento che si manifesta con dei canoni molto differenti. La confusione regna, brevemente, un nuovo segno che appare universalmente come una nuova primavera. Un segno che, spiega, con la nascita della sociologia diventa un programma di architettura e di urbanismo di cui l'architettura era priva da due secoli. Abbandonando i palazzi e le chiese, l'architettura si volge oggi verso il cuore dell'uomo, scrive Le Corbusier, verso il cuore delle folle. Non si tratta più né di palazzi né di chiese, ma dell'alloggio contemporaneo, dell'alloggio degli esseri umani. Un intervento in particolare di Le Corbusier avvenne a Capri, dove davanti ai Faraglioni a Punta Tragara l'architetto disegnò una villa che esiste tuttora, trasformata in un albergo di lusso. Sentiamo la filosofia dell'intervento effettuato a Capri. La deferenza basta per ispirare il rispetto verso la casa di Tragara. Ed ecco che le intenzioni, germinate successivamente, si precisano. Asilo di pace, monastero, mezzo per contemplare la bellezza della natura. Tradotti in formula architettonica, gli elementi che ne risultano si riassumono in una serie di celle destinate a usi diversi, in un legame efficace che le unisce l'una all'altra. Ed ecco definito questo fenomeno architettonico. Celle di un certo tipo e un collegamento che è, e che avrebbe potuto non essere, il camminamento meditativo dell'uomo nella propria casa. Questo costituisce l'architettura. E io ho amato la casa di Tragara perché, in mezzo alla produzione attuale, sconvolta, isterica, inquieta e frequentemente staccata dalla dignità dell'uomo, i suoi ritmi architettonici sono parentesi serene che raccolgono il pensiero e si aprono sugli emozionanti spazi del paesaggio. Il mare, la spalla dell'isola, laggiù Tiberio. Il ruolo svolto dalla Corbusier nell'urbanistica, oltre che nell'architettura moderna, è sottolineata da un antropologo, Franco La Cecla, che nota anche l'evoluzione dell'architetto svizzero, che col movimento moderno aveva fatto piazza pulita dell'architettura, così, per così dire, vernacolare, popolare, quando questa, scrive La Cecla, appariva ingiustificata in tutte le costruzioni cariche di ornamenti e simboliche in sé. Solo il Le Corbusier della tarda maturità, aggiunge La Cecla, si staccherà da questa visione per un'architettura non funzionale come la chiesa di Rochamp, e non a caso la modellerà sul ricordo di una cappella tomba islamica vista molti anni prima nel Maghreb. Queste righe che ho letto sono tratte da Mente Locale, che è la ripresa di un saggio del 1993 di Franco La Cecla, appunto, pubblicato da Eleutera, 128 pagine, 14 euro, che è accompagnato da un DVD, un film In Altro Mare, sempre di La Cecla, che è ambientato in un borgo degli Stati Uniti presso Nantucket, dove da 5 generazioni si perpetua una colonna di pescatori originari terrasini. Nella prefazione alla prima edizione di questo libro di Paul Feyerabend, che qui naturalmente viene ripubblicata, Paul Feyerabend era un grande filosofo della scienza, questi nota che lo studio di La Cecla sembra dare alcune risposte a coloro che desiderano un mondo meno spersonalizzato e più gestibile. E lo stesso La Cecla torna sul tema della moderna urbanistica in Contro l'urbanistica, pubblicato da Einaudi, 148 pagine, 12 euro. Qui La Cecla nota, al Cairo, a Istanbul, a Hong Kong, che si sta costruendo un aspetto nuovo della cittadinanza. I luoghi nei quali esplodono i movimenti sociali e politici hanno rappresentato quasi l'identità di quei movimenti stessi. Ne sono diventati simboli, come la piazza Tahrir al Cairo, come il Gezi Park a Istanbul, o come le strade di Hong Kong. Insomma, spiega La Cecla, oggi sono proprio le grandi città e spesso i loro non luoghi che urbanizzano umanisti, sociologi, antropologi pensano essere il luogo assoluto dell'anonimato, a manifestare un modo politico diverso di esserci. E di qui la sfida alla moderna urbanistica, che secondo l'autore appare incapace di conoscere quello che avviene nelle città, perché è chiusa dentro parametri numerici e liste, perché ha creduto che la realtà sociale sia qualcosa di trasferibile in mappature percentuali e calcolo delle probabilità. È ovvio che le sfuggono i reali movimenti e le reali motivazioni. E questa analisi viene condotta attraverso 10 esperienze, tra cui 2 italiane, Milano e Ragusa. E su Milano la Cecla è critica e infatti definisce la città dalla quale adesso vi parlo come un posto strano. Chi ci arriva da fuori e non ci è abituato si sorprende che sia una città volutamente trasandata, come se la cifra più forte del suo attestarsi sulla bassa non sia il magnifico Duomo, ma l'assenza di dettagli, il voler comunicare qui non abbiamo tempo per la bellezza. L'altro esempio, Ragusa, invece è un elemento positivo, diventa quasi un esempio di che cosa? Di una città urbana, di una città che si offre appunto con questo tratto di urbanità che non ha nulla a che fare con la dimensione di un centro abitato, ma con la sua ambizione. È urbanità avere viali alberati, urbanità avere un passeggio dove la gente si sente obbligata a vestirsi bene per fare le vasche, urbanità il rapporto tra casa e strada, quel dialogo qui intessuto di posti per sedersi davanti casa, piante, tettoie. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica unlibro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.